I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Deborah Rosciani. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con i 100 secondi di Radio 24. Giornate nervose sui mercati finanziari, animate da una grande volatilità. I dati sulla crescita europea dei primi tre mesi di quest'anno hanno messo in evidenza che per adesso la ripresa rimane ancora fragile. È ancora tutto da sciogliere il nodo della Grecia, visto che ancora non è stato raggiunto un accordo per sbloccare gli aiuti internazionali. Anche l'economia americana ha mostrato segni di rallentamento, circostanza che ha permesso all'euro una vistosa ripresa sul dollaro. In una lezione al Fondo Monetario Internazionale, Mario Draghi ha detto che il programma di acquisti della Banca Centrale Europea si è rivelato sino ad ora potente, ma è necessario che vada avanti per riportare l'inflazione su livelli, ha detto, più salutari, per ripristinare la fiducia di imprese e famiglie. La circostanza nuova che si sta notando da qualche tempo sui mercati è il generale aumento dei rendimenti dei titoli di Stato su scala mondiale. Il Bund tedesco, per esempio, è tornato allo 0,7%, neanche un mese fa era praticamente a zero. Il rialzo dei tassi coinvolge anche i treasury americani, che si sono riportati sui livelli dello scorso novembre. Un piccolo scatto è stato registrato anche sui rendimenti dei bot annuali italiani. A proposito d'Italia, il mercato ha apprezzato il dato sul PIL. L'Istat ha stimato più 0,3% nel primo trimestre. C'è inversione di tendenza e il dato è risultato invariato su base annuale, registrando quindi uno stop ai cali che si sono susseguiti per 13 mesi. La borsa ha inforcato una lunga serie di trimestrali con risultati incoraggianti, sono piaciuti i conti di Generali, ci sono state delle novità per quello che riguarda Banca Monte dei Paschi, perché la Banca Centrale Europea ha dato il suo disco verde all'aumento di capitale che si svolgerà a questo punto alla fine del mese per rimborsare i Monti Bond, anche se la Banca Centrale Europea ha fatto capire di auspicare anche un'aggregazione per l'Istituto Senese. I temi da monitorare questa settimana, infine, intanto vedremo l'impatto del giudizio di Standard & Poor's sull'Italia. Abbiamo aggiornamenti sull'inflazione europea, diverse statistiche sull'andamento del settore manifatturiero, infine la pubblicazione dei verbali delle ultime riunioni della Banca Centrale Americana e della Banca d'Inghilterra. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Salvatore Padula. Il governo ha quindi indicato una soluzione per affrontare il difficilissimo nodo degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato per il 2012 e il 2013 il blocco della rivalutazione delle pensioni superiori a circa 1.400 euro lordi al mese. Il meccanismo individuato, che sta già suscitando pesanti critiche nei confronti del governo da parte delle opposizioni, prevede un rimborso in cifra fissa, una tantum, fino a un massimo di 750 euro, che sarà riconosciuta solo sulle pensioni fino a 3.200 euro lordi al mese. È un meccanismo che consentirà di contenere la spesa complessiva a poco più di 2 miliardi di euro rispetto ai 18 che sarebbero stati necessari per adeguare integralmente le pensioni bloccate. Quindi, come aveva detto il ministro dell'economia Padoan, il governo ha minimizzato i costi di adeguamento alla sentenza. Si può criticare questa scelta, come molti stanno facendo, tra l'altro anche tra quanti quell'articolo del decreto Monti l'avevano a suo tempo votato in Parlamento, ma la sensazione, visti i numeri, è che qualsiasi governo che si fosse trovato nelle condizioni in cui oggi si è trovato il governo Renzi si sarebbe comportato esattamente allo stesso modo, ovvero avrebbe cercato di limitare l'impatto della sentenza sui conti pubblici. Forse non è la cosa più giusta, forse non è la cosa più equa, certamente è la più realistica e probabilmente anche l'unica possibile viste le cifre in gioco. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.